Pisa 24, i gialli della storia. Gaudet Mater Ecclesia. È stato un concilio che ha, diciamo, ha cambiato il modo di predicare il Vangelo, il modo di pregare, il modo di avere, di essere prete, di essere vescovo, di essere laico. Comprendere che la vita religiosa non era un atto privato, un'esperienza individuale, ma era un'esperienza ecclesiale, un'esperienza comunitaria, un'esperienza per il mondo. La più grande esperienza religiosa della mia vita. Il Concilio Vaticano II è stato uno degli avvenimenti più rivoluzionari del XX secolo. E in un momento in cui vengono messi in discussione alcuni principi della cristianità toccati da scandali e incertezze strutturali, ricordare quei momenti, quelle riflessioni, quei dibattiti è importante e forse addirittura necessario. Oggi a Mix 24 ripercorreremo quelle ore, quei giorni, quando i più autorevoli esponenti della cristianità hanno modificato la lettura stessa del rapporto tra la Chiesa Cattolica e il mondo. Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit. L'11 ottobre del 62, con queste parole, Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II, un evento seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Ascoltiamo le parole di Monsignor Loris Capovilla, che era il segretario di Giovanni XXIII. Quando è entrato in concilio ha detto: entriamo con la divina rivelazione, con la tradizione della Chiesa, con tutta la ricchezza della patrologia greca e latina, che è la nostra ricchezza straordinaria, culturale, ed entriamo con tutti i 20 concili precedenti, senza rinnegare nulla del passato, magari aggiornare. Aggiornare vuol dire leggere meglio. I padri conciliari sono 2381 e per la prima volta la Chiesa si mostra nella sua universalità. L'Asia e l'Africa sono rappresentate non solo da missionari europei, ma anche da vescovi delle loro terre. Nella gloria di San Pietro ha aperto il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il corteo è lungo circa 4 chilometri. Tutte le campane di Roma suonano a festa quando Giovanni XXIII esce dal portone di bronzo. In testa al corteo, lungo quasi 4 chilometri, ci sono i superiori degli ordini religiosi, gli abbati generali, i prelati, poi i vescovi, gli arcivescovi, i patriarchi, i cardinali. Ultimo, tra gli applausi della folla, entra sulla sedia gestatoria Papa Giovanni XXIII. Sentiamo lo storico Alberto Melloni. Giovanni ha segnato la storia della Chiesa e la sua idea di fare un concilio è un criterio decisivo per comprendere il Vaticano II. Papa Giovanni voleva un concilio che non fosse un concilio che faceva condanne e che faceva dogmi. E in questo modo lo metteva su un binario nuovo, inedito per la storia conciliare, che molto spesso ha visto queste assisi convocarsi davanti a grandi crisi. Ad de presens tempus quod attinet, Christus ponse placet, misericordia medicina a divere, possius quam severitatis arma suscipere. Al tempo presente la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Queste le parole del Papa, che indicano la necessità di una modernizzazione dell'aggiornamento nella lettura del Vangelo, come spiega il Monsignor Loris Capovilla. Papa Giovanni sentiva che occorreva andare oltre e diceva: non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a capirlo meglio e ad applicarlo anche meglio. Piano piano faremo altri passi innanzi. Nella Basilica ci sono anche gli osservatori e i delegati delle altre chiese cristiane. Ci sono gli ortodossi, i protestanti, gli anglicani, un segno preciso della volontà di muoversi verso la riunificazione del mondo cristiano. E Monsignor Gianfranco Ravasi che ci racconta quel desiderio. Le chiese d'Oriente giocarono una funzione importante nell'interno del Concilio, prima di tutto perché portavano una voce che era muta. Era una voce che prima di tutto risuonava in Occidente e risuonava con una caratteristica che non è marginale per noi occidentali. Era una voce testimoniale. Cioè loro avevano sofferto tanto e anche qui, pur dicendo, dovevano sempre far sospettare quasi, in connotazione, in eco, quello che loro avrebbero voluto anche dire di più, perché poi loro ritornavano ancora in contesti difficili. La sera del giorno di apertura del Concilio Vaticano II, Piazza San Pietro si riempie di persone che stanno lì come ad aspettare un segno. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Era una serata molto fresca, insomma, e tanta gente veniva sulla piazza. E a un certo punto il Papa, che era Giovanni XXIII, si era affacciato alla finestra perché sentiva tutti che reclamavano la sua parola. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Noi chiudiamo una grande giornata di pace. Stasera, dice, vedo che il Papa dal suo balcone è sceso in mezzo a noi, si è fatto uno di noi. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Però la gente non andava a casa, rimaneva lì e dopo un po' di nuovo battevano le mani, chiamavano il Papa e il Papa apre la finestra di nuovo. Dice, ma siete ancora qui? Dice, è tardi, tornate a casa. Poi dite una frase bellissima che ha commosso. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite, questa è la carezza del Papa. Parole che hanno fatto il giro del mondo, che sono rimaste nella memoria collettiva. Ma che cosa è stato realmente il Concilio Vaticano II? Che impatto ha avuto sull'opinione pubblica? Lo racconta Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano. A Roma convergono centinaia, migliaia di giornalisti di tutto il mondo. L'interesse, soprattutto in Europa, ma non solo, è molto alto, vengono pubblicate corrispondenze, queste corrispondenze vengono raccolte, sono giornalisti, sono teologi che vengono scritturati dai giornali, oppure sono gli stessi padri conciliari a scrivere. Insomma, una grande esperienza mediatica e poi una gran parte dei lavori e dei contatti umani proseguono nelle riunioni che si tengono nelle case religiose, nei seminari nazionali dove alloggiano i vescovi di tutto il mondo, un enorme scambio culturale, come racconta il cardinale Roberto Tucci. Avevo invitato tutti i direttori delle riviste dei gesuiti in Europa a venire ad abitare la Città Cattolica. E la sera, dopo cena, io gli dicevo tutto quello che avevo sentito in concilio la mattina. E loro mi dicevano quello che avevano sentito dai vescovi del loro paese. Un concilio orientato al dialogo e alla comunicazione anche fuori dalle gerarchie. Come racconta ancora Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Concilio Vaticano II ha approntato la Chiesa Cattolica a vivere nella globalizzazione, quindi comunicare il Vangelo ma anche dialogare con gli altri, con le religioni non cristiane, e qui la grande creazione di Giovanni Paolo II nel 1986 che è Assisi, e poi il dialogo ecumenico, e poi il dialogo con i non credenti, questa Chiesa cattolica si è attrezzata alla globalizzazione, perché la Chiesa è già in sé una globalizzazione. Ma il Concilio Vaticano II è segnato anche dalla morte di Giovanni XXIII. La salute del pontefice sta peggiorando rapidamente e rapidamente succedono alcuni avvenimenti. Il 10 e l'11 maggio gli viene conferito il premio Balsam per la pace e dopo due giorni viene consegnata al segretario delle Nazioni Unite una copia dell'enciclica Pacem in Terris, che pubblica anche il Cremlino in russo. Giovanni XXIII, in questa enciclica, si rivolge non solo ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Riconosce il ruolo della donna, ribadisce il rifiuto della guerra come soluzione delle controversie internazionali, condanna la politica degli armamenti e stabilisce la centralità della pace nel magistero della Chiesa. Ancora Andrea Riccardi. Ma in quel momento, momento di guerra fredda, quando si voleva uscire dalla guerra fredda, ecco, quella fu un'enciclica importante, fu un grande segno. E non dimentichiamoci poco prima la crisi di Cuba, in cui il mondo era andato vicino alla guerra nucleare. La sera del 3 giugno del 63 muore il Santo Padre, dopo 4 anni e 7 mesi di pontificato. Il 19 giugno del 63, 80 cardinali entrano in conclave a concilio aperto. Nella tarda mattinata del 21 giugno del 63 viene eletto Papa l'arcivescovo di Milano Montini, che assume il nome di Paolo VI e che afferma la volontà di proseguire il concilio, come racconta il cardinal Paul Poupart. Qualcuno sognava che questo concilio era così pericoloso che era meglio chiuderlo. Invece Montini si è affermato chiaramente, e se posso dire, come non ero al conclave, posso parlarne, il conclave si è giocato su questo. Prima dichiarazione del neopapa Montini, appena eletto Paolo VI, concludere il Concilio Vaticano II sarà l'asse portante del mio pontificato. Il concilio quindi continua e sarà nel segno rivoluzionario di alcuni cambiamenti straordinari, come quelli legati alla liturgia e al rapporto con le donne e la loro funzione all'interno del mondo religioso. Ne parlano la teologa Marcella Farina e il vaticanista Gianfranco Svidercoschi. Con il concilio si è aperto l'accesso delle donne nelle facoltà teologiche, dove certamente per i religiosi e per i sacerdoti era già un luogo abituale, perché per loro era un diritto studiare la teologia, mentre per noi donne, per noi religiose, era proprio un'opportunità unica, quindi ci siamo messe a studiare con tanto calore, con tanto entusiasmo. Le donne non parlarono allora in concilio, le donne, però c'erano delle donne che erano presenti, e anche da lì è cominciato quel processo di cambiamento che da un certo tipo di misoginia che c'era ancora nella Chiesa poi dopo ha portato a questo grande riconoscimento delle donne. E alcune donne vengono chiamate al concilio come uditrici, come ricorda Pietro Doria dell'Archivio Segreto del Vaticano e Lucetta Scarafia. Tra di esse emerge sicuramente la figura dell'australiana Rosemary Gondi, la quale dal momento della nomina in poi partecipò a tutte le riunioni degli uditori, presentò numerosissime osservazioni scritte e partecipò a una delle sottocommissioni per la preparazione della Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Questo è nuovo nella storia della Chiesa, che non siano religiose, non siano sante, non siano mistiche, ma delle studiose. Ci sono state delle laiche che hanno influito sul concilio anche dall'esterno. Una di queste, la principale, Dorothy Day, questa anarchica americana convertita al cattolicesimo, che organizza durante il concilio una presenza di donne di tanti paesi e di tante religioni diverse per fare pressione sui padri conciliari affinché affrontino il tema della guerra, cioè della negazione alla guerra, per ottenere dalla Chiesa una posizione nettamente pacifista. Un'altra rivoluzione è quella legata alla liturgia. Fino a quel momento ogni rito veniva celebrato in latino e l'officiante dava la schiena ai fedeli. Con il concilio i fedeli potranno capire tutto di quello che si dice nella propria lingua e i riti saranno officiati di fronte a loro. Questa rivoluzione entra in vigore a concilio ancora aperto e il 7 marzo del 65 Paolo VI nella chiesa di Ognissanti a Roma celebra per la prima volta la messa utilizzando la lingua italiana. Obbedienti al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questo cambiamento, insieme a altre riforme introdotte dal Concilio Vaticano II, saranno i temi che porteranno al doloroso scisma che sarà consumato tra la Chiesa e la Fraternità Sacerdotale San Pio X di Monsignor Marcel Lefebvre. E un altro tema trattato al Concilio divide le coscienze e crea polemiche a distanza, quello del rapporto con l'ebraismo. E su questo ascoltiamo le opinioni di Gianfranco Sviderkowski e del rabbino David Rosen. Sebbene le autorità dei giudei, con i propri seguaci, abbiano chiesto la morte di Cristo, tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi, né agli ebrei odierni. Questo documento non era previsto all'inizio del Concilio. Questo documento in qualche modo è stato suggerito dagli stessi rappresentanti ebraici a Giovanni XXIII. Ha avuto una vita travagliatissima, prima per chi era contrario, ancora impastoiato con le vecchie credenze contro il mondo ebraico, e poi anche per tutto il mondo arabo che, pensando che ci fosse, parlando degli ebrei, ci fosse un riconoscimento automaticamente di Israele. Il documento conciliare Nostra Aetate è stato significativo sotto molti aspetti, ma la quarta parte, quella che trattava dei rapporti con gli ebrei, è stata addirittura rivoluzionaria. Bisogna sempre ricordare che nel corso della storia e fino alla stessa epoca di quel documento, la percezione dominante degli ebrei da parte della Chiesa era che si trattasse di un popolo che Dio aveva rifiutato, sostituendolo con la Chiesa, appunto. Questa percezione è stata radicalmente rifiutata dal documento conciliare Nostra Aetate, che spiegava che questo non era affatto il modo in cui la Chiesa intendeva che fossero considerati gli ebrei. Inoltre, la Chiesa, che condanna tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, deplora gli odi, le persecuzioni, le manifestazioni di antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque. Un'altra novità clamorosa. Questo ha comportato che il rapporto tra cattolici ed ebrei cambiasse completamente. È un cambiamento epocale. Ieri gli ebrei erano rifiutati, condannati, espulsi. Oggi sono la comunità più vicina che ci sia alla Chiesa di Roma. Se poi nel corso dei secoli sono sorti non pochi dissensi e inimicizie tra cristiani e musulmani, il Sacro Concilio esorta tutti a praticare sinceramente la mutua comprensione, dimenticando il passato, e a difendere e promuovere in comune la giustizia sociale, i valori morali e la pace e la libertà per tutti gli uomini. Pace e dialogo interreligioso, giustizia e libertà di culto e di coscienza. Altri grandi temi che rimangono come pietre miliari nell'agenda dei padri conciliari, anche e soprattutto quando sul soglio di Pietro sale Paolo VI. La seconda sessione del Concilio inizia il 29 settembre. Nel suo discorso di apertura, il Pontefice elenca i quattro obiettivi del Vaticano II. Una definizione più meditata della Chiesa, il suo rinnovamento, il dialogo con gli uomini contemporanei e la promozione dell'unità dei cristiani. L'ecumenismo è un dovere di tutta la Chiesa. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un anatema poteva essere, ma non è avvenuto. La Chiesa deve rinnovarsi e il Papa deve essere il primo a farlo. E lo dimostra con il viaggio in Terra Santa, come racconta Giovanni Maria Vianna. Benvenuto, Santo Padre, nella terra di Gesù. Il Papa è sotto di noi, alza le braccia e benedice. Tutta la gente si volge verso di lui e prega. Paolo VI aveva il dono dei gesti, tra questi il più clamoroso fu l'annuncio a sorpresa del pellegrinaggio in Terra Santa. Brevissimo, preparato nel massimo segreto, allora i segreti venivano mantenuti, che si celebrò durante 3-4 giorni. Manzini naturalmente seguì il Papa sul volo papale, non so, il Corriere mandò Eugenio Montale, tanto per dirne una. Di abbracciare dopo secoli il patriarca ecumenico di Costantinopoli e di scambiare con lui parole di pace e di fraternità. E il 4 ottobre del 65 un altro viaggio straordinario. Paolo VI va a New York e si incontra col presidente Johnson per riannodare i rapporti diplomatici interrotti da oltre un secolo, e in quell'occasione pronuncia un discorso in francese alle Nazioni Unite. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Mai più la guerra. C'est la paix. È la pace. È la pace che deve custodire i destini dei popoli. Questa grande lezione, insomma, di dialogo, che era una delle sue grandi preoccupazioni, lui, per far passare il suo messaggio, si posso dire, ha lodato l'ideale delle Nazioni Unite. Qui siete tutti uguali, dice, mai più gli uni al di sopra degli altri, mai più gli uni contro gli altri, ma sempre li uni con gli altri, per gli altri. Con una liturgia solenne Paolo VI conclude il Vaticano II e l'8 dicembre del 65 nei suoi 16 documenti è disegnata una chiesa più spirituale, più evangelica, più missionaria, più vicina agli uomini e ai loro problemi. Noi concludiamo quest'oggi il Concilio Ecumenico Vaticano II. Mai come in questa occasione la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di comprendere, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla, nel suo rapido e continuo mutamento. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.